Wellness, spa, fitness, sinonimi di relax, dalla piccola vasca idromassaggio gonfiabile a quella più lussuosa che permette di nuotare anche in un appartamento, alla sauna munita di impianto audio, i prodotti esposti nell'area benessere del MADE Expo testimoniano una crescita nei consumi in questo settore che coinvolge moltissime fasce di reddito, un via vai continuo non soltanto di privati che cercano per il proprio appartamento una soluzione per il benessere quotidiano, ma anche di proprietari di alberghi e centri dedicati al wellness che puntano ad innovare la propria attività. E le aziende registrano un continuo aumento di fatturato. Massimo Maestroni è direttore commerciale di una delle aziende leader nel settore. È un aumento a due cifre, ormai confermato come trend negli ultimi 5 anni. Ormai fare piscina significa anche fare benessere e quindi la crescita è continua. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore.